che sale il giorno, ora che sale il finita è la notte, la luna si scioglie lenta nel sereno. Tramonta nei canali, è così vivo settembre, in questa terra di pianura i prati sono verdi come nelle valli del sud, come nelle valli del sud a primavera. Ho lasciato i compagni, ho nascosto il mio cuore per restare sola a ricordarti, a ricordare te che sei più lontano. Sale il giorno, ora che sale il giorno.